get a good feeling, yeah. Yeah. Il coordinamento lesbiche romane presenta I get a feeling that I never, never, never, never had before, no, no. È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. Trasmissione autogestita sugli 87.900 di Radio Onda Rossa. Ciao a tutte, eccoci alla nostra 51esima trasmissione, io sono Caterina. Allora, come va? Noi ce la stiamo mettendo tutta per continuare questa serie di trasmissioni, anche se vi confessiamo sta diventando abbastanza difficile. Non tanto per il semplice lavoro di preparazione degli interventi, ma piuttosto per il contesto che ci circonda, che diventa, a volte, lacerante. Sto pensando, per esempio, al luogo che noi abbiamo scelto come nostra sede, il Buon Pastore, che sta cambiando i suoi connotati. Voglio dire che la Casa Internazionale delle Donne sta assumendo una configurazione assai diversa dal significato che forse anni addietro gli si poteva tranquillamente attribuire. L'amministrazione comunale è sempre più presente ed è come se stesse chiedendo il conto per l'assegnazione dello stabile alle donne. La politica? Certo che è presente, ma rispecchia un andamento generale che forse ci corrisponde sempre meno. Si parla di corsi di formazione, di sviluppo dell'artigianato femminile, di possibile ostello per il giubileo, di terapie di supporto per le donne, di eventuali mercatini e simili. Mi sembra di parlare sempre più spesso di un'opera assistenziale, una sorta di San Patrignano al femminile. Ma la politica? Quella vera, quella delle donne, quella che produce pensiero, quella che tiene testa ad un patriarcato dominante, quella che apprende dal passato, quella che mette in discussione le regole date, quella che rispetta la diversità, quella che riconosce valori. Beh, a volte stento a trovarla nei locali del Buon Pastore. Non riesco a rassegnarmi all'idea che forse tutto si sta confondendo in un semplicistico fare qualcosa con altre donne. Non che io pensi che tutte queste cose non siano necessarie, intendiamoci, ma forse il mio continuo credere che sia altrettanto importante il pensiero, oltre all'azione, mi fa essere così testarda da continuare a salvaguardare con le unghie e con i denti uno spazio ormai minimo di politica alternativa. E certo non mi solleva il morale sapere che un giornale come Noi Donne ha chiuso. Il primo numero di questo giornale uscì a Napoli nel 1944 dopo essere nata come testata in Francia nel 1937 come organo ufficiale dell'Unione Antifascista delle Donne Italiane. Erano due fogli autoprodotti e tirati a mano. Ne vennero stampate 500 copie. Questo giornale, già negli anni 40 dunque, parlava con voce libera alle donne antifasciste ed ha continuato per parecchio tempo. Alla sua direzione si sono alternate donne come Maria Antonietta Macciocchi, Giuliana Dal Pozzo, Miriam Mafai. Il tenore degli articoli e le tematiche affrontate erano di tutto riguardo. Il giornale si schierò contro la violenza domestica, l'indissolubilità del matrimonio, la patria potestà, a favore della pace, una prima lotta per l'autodeterminazione, l'aborto e tanti altri argomenti. Ricordo ancora quando mia madre lo portava a casa. All'inizio, da piccolina, leggevo soltanto le strisce del fumetto che stava nelle ultime pagine, poi, crescendo, diventò una presenza utile e familiare per me. Negli anni a seguire fu un punto di riferimento, una delle poche voci contro che c'erano e che avevo il piacere di sentire. Gli anni della contestazione giovanile o i primi approcci al mondo lavorativo per me furono accompagnati dai servizi e dalle interviste di questo giornale. Durante le manifestazioni era quasi un piacere parlare con le giornaliste di questa testata. Quando, con altre compagne, aprimmo una cooperativa di servizi ai Castelli Romani, ci sembrò scontato contattare la redazione di Noi Donne. E loro vennero a parlare con noi, dedicandoci poi un articolo sul giornale che ancora conservo. Poi ha cominciato a cambiare qualcosa. Ho cominciato a vedere articoli di moda, di bellezza. Ai miei occhi stonavano un po', forse perché vedevo in questi l'avanzamento di una forma di femminilità che rientrava nei canoni comuni e sentivo scendere l'aspetto prettamente femminista che per anni l'aveva contraddistinto. Chissà, forse le ferree leggi di mercato o più semplicemente i tempi che cambiano. A volte non ci trovavo più una sostanziale differenza con gli altri giornali femminili. Fino ai giorni nostri, ad oggi, alla chiusura di questa testata storica che ho appreso dal telegiornale della sera di qualche giorno fa. Peccato, peccato davvero. L'attuale direttrice Sara Sini, in un'intervista per il giornale Liberazione, afferma: essere in controtendenza è difficile, faticoso, e ancora, la sinistra sta ripudiando i propri mezzi di comunicazione interna e non ne trova altri. Ritengo molto, molto miope chi asseconda questo cambiamento. Esiste un'opinione pubblica femminile che non ha gli strumenti per esprimersi. Ma per fortuna esistono ancora realtà impiantate e gestite da donne in grado di segnare il tempo rimanendo fedeli a se stesse. Una di queste è la Libreria delle Donne di Roma. Insieme a Lucilla sono andata ad intervistare Maria Luisa, una fondatrice e fautrice di questa realtà. Sentiamo insieme l'intervista dopo aver ascoltato il brano musicale che abbiamo scelto per voi dal CD Women of Spirit, che racchiude brani cantati da donne provenienti da diverse parti del globo. Il titolo è In Exile e cantato da due cantanti dal nome impronunciabile che spero di dire bene, Kaper Kylie e Sibeda. Due cantanti appunto che uniscono insieme i ritmi scozzesi a quelli della Nuova Guinea. siamo alla Libreria delle Donne, qui di Roma, che si chiama Il Tempo Ritrovato, e siamo in compagnia di Maria Luisa, alla quale vogliamo fare delle domande su questa attività. Innanzitutto, Maria Luisa, come è nata l'idea di aprire una libreria per le donne e quando? E tu credo che in questa storia ci sei in mezzo da sempre, no? Sì, più che in mezzo proprio. L'idea a me ci giravo attorno già nel 75-76. Erano all'epoca dei collettivi dei femministi e io stavo al collettivo della Maglia. E già traducevo molti libri, li portavo, andavo spesso in America, insomma, li portavo e li traducevo per Savelli, ne ho le tradotte, insomma, le cose. E volevo fare appunto una libreria che raccogliesse, cominciasse a raccogliere le testimonianze scritte. E era il 77 quando finalmente io e Simone Carbonell, che allora eravamo soci, siamo riuscite a individuare questo piccolo gioiello che era in Piazza Farnese e dicemmo sì che l'avremmo presa senza averla vista. Poi di domenica andammo a vederla perché si era la serranda con le grate e la guardammo da fuori, l'avevamo presa, non comperata le mura ovviamente, ma presa la licenza, insomma, il nome al Tempo Ritrovato era il nome della licenza e per poter subentrare nell'affitto abbiamo dovuto sempre mantenerlo. Ah, quindi è così che nasce, non è una vera scelta nostra. Noi metteremo libreria delle donne, solo l'unico cambiamento che potremmo fare era quello, però siccome c'era la licenza e il contratto d'affitto lo stesso nome, allora si subentrava e così rimase. Dopodiché non abbiamo più avuto, e poi ormai era diventata nota come Al Tempo Ritrovato, anche se era un nome molto prustiano, insomma. A quel tempo Il Tempo Ritrovato aveva anche un senso anche per noi, che era proprio un po' lo spazio che uno si riprendeva, no? Le cose che, lo spazio per leggere, per studiare, per vedere gli scritti di altre donne, capire i pensieri delle altre, cioè. E così nacque sicuramente su una mia grossa passione. E fondamentalmente mio. E anche Simone aveva una cosa, le piaceva la libreria in generale. E l'altra cosa che era questa grossa passione, e poi la consapevolezza che ci dovevamo mettere i soldi nostri, insomma, no? Cioè che io avevo dei soldi di un lavoro precedente, di una liquidazione, Simone pure, e dicemmo, per 6 mesi possiamo stare senza stipendio, la mettiamo su e vediamo, insomma, no? Poi dopo facciamo questa scommessa di vivere anche materialmente, di coniugare passione politica e lavoro, che è sicuramente sempre stato l'aspetto più bello di tutta la storia della libreria, per chi ci ha lavorato, perlomeno io parlo di me, e questo fatto di non essere scisse fra il lavoro che fai per un altro oppure no per altre cose, cioè, questa estrema libertà che ti dà, certo rinunci molto ai soldi perché questa non è un'attività che lucrativa, che renda ricchi nessuno, insomma, no? Però ripaga per moltissimi altri aspetti. E questo è stato molto chiaro fin dall'inizio, questo fatto che c'era questo impegno, insomma, no? Cioè di lavorarci e di sopravviverci. Per cui magari quando non riuscivamo, no? Che c'erano anni più bui dove c'era meno vendita, così. Allora io facevo qualche lavoro, facevo le traduzioni oppure facevo, no, mi traevo il sostentamento economico da altri lavori, esattamente il contrario di quello che si fa. In genere un lavoro di merda, non si dice? Sì, si può dire, si può dire. Un lavoraccio, diciamo, e poi nel tempo libero altre attività. Era esattamente il contrario, no? Cioè un lavoraccio per poter mantenere questo lavoro principale, insomma, no? E io non mi sono mai pentita di questa scelta, insomma, no? non, probabilmente avrò come dire, contenuto le mie esigenze anche economiche, insomma, no? Naturalmente. In virtù di quello, perché chiaramente quello che a me ritornava nella mia vita era impagabile. Certo. Era impagabile. Per cui io non ho mai sentito, insomma, grandi frustrazioni o cose del genere. E la libreria ne ha viste di tutti i colori in tutti questi anni, e intendo dire di tutti i colori, intendendo dire che sono passate una marea di donne da Adrienne Rich. Opla, è un libro. Sì, ogni tanto si ribellano, fanno così, soprattutto quando sei da sola, ti fanno dei colpi tremendi, E allora, Alice, quindi è passato di qui, che è una cosa, sì, no, è un evento. In Piazza Farnese, sì, era l'80, lo ricordo come adesso, un'altra volta ve lo racconterò. Poi passò la biografa di Frida Kahlo, la Hayden Herrera, ma dico così giusto perché sono quelle la biografa di Karen Blix, voglio dire, per dire, poi da tutte le studiose, insomma, no, italiane e straniere, di tutti i tipi. E dunque, che dire, dunque mi sono persa forse un no, po'. Quindi hai cioè, il discorso sulla passione che tu avevi, esatto, l'hai potuta veramente vivere pienamente? Esatto, pienamente, proprio, e veniva alimentata, non so come dire, no, proprio da queste cose, poi erano conti che arricchiscono situazioni e cose. E quello che è sempre stato il mio pallino, la mia grande, era stato quello di cercare di trasmettere, no? Di passare ad altri questa grande ricchezza che a me sembrava di avere, che forse avevo, insomma, no? All'interno della libreria, che la libreria era un luogo che consentiva, che raccoglieva questa ricchezza, e io lo sentivo che era un dovere in qualche maniera, insomma, quella di poterla ripassare. Allora era studiare, capire, vedere cosa pensavano, studiare cosa, no? Certo. Tutte le scrittrici, dai saggi alle cose, il pensiero, l'elaborazione del pensiero, per poter proprio come si dice? Quando tu lo rimandare? Sì, lo ridai, ecco, certo. Lo ridai, per poterlo ridare a seconda di quello che veniva con un'esigenza, dici io vorrei questo, bene, allora tu sapevi che c'erano 10 donne che su quella cosa avevano detto magari 10 cose diverse oppure 10. E quello era il fondamentale, insomma, no? Poi su questo 10 c'era quello su cui io di una condividevo appieno, di 5 condividevo metà, ma era importante sapere anche quello di cui non condividevo. Certo. Proprio perché era, ecco, questa... Quindi se mi posso agganciare allora un attimo a questo che stai dicendo, uh-huh, appunto, quindi alla predominanza di un'attività di tipo culturale, uh-huh, questa cosa continua, politica, culturale, beh noi siamo sì, nell'area della posso. Politica culturale, esatto, quindi noi sì, come sì. coordinamento questo facciamo, sì, sì. Quindi siamo perfettamente uh-huh. in sintonia uh-huh. con quello che stai dicendo. E a maggior ragione ti chiediamo, ma allora ancora oggi tu questo. Privilegi questo aspetto, tu, voi privilegiate sì. questo aspetto qui sì. all'interno e quindi... Sì. Ancora oggi fate di questo, noi sì. ne abbiamo già parlato adesso, in precedenza. Adesso più che mai. Adesso più che mai. È ancora più necessario. Adesso più che mai, proprio perché adesso siamo nella fase in cui le donne, o perlomeno no, gli ultimi 30 anni di storia delle donne, non dico solo storia come categoria di sapere, sono passate all'università, si studiano nelle scuole, nelle università, eccetera. E per noi è fondamentale. Questo fatto che di poter offrire e di poter far sapere quello che è stato prodotto, quello che è stato detto su una determinata cosa, quello che donne che, no, il pensiero originale delle donne rispetto, che ne so, per restare nella storia, rispetto a Duby, che ha scritto la storia in generale e poi ha scritto la storia delle donne senza nessun senso della vergogna, insomma, sì. no? Cioè, o intitolava l'altra la storia dell'uomo, e poi questa è la storia delle donne, ma non si dà che uno, no? Dica, certo. Scrivo la storia del Medioevo, eccetera, di tutto l'ha scritta, e poi scrivo la storia delle donne anche. Mm? Sì, lo sappiamo che Duby è un grande studioso, no, ma grandissimo, un uomo, esatto, come no, tale. Infatti voglio dire, grandissimo, ma voglio dire, no, per cui senza vergogna. Sì. Beh, e allora adesso la funzione è ancora più... Per questo che io ci tengo così tanto, insomma, alla sopravvivenza di questa libreria, perché adesso ne vedo ancora di più le possibilità, insomma, no? C'è uno spazio politico proprio. Sì, nel senso che se non glielo diciamo noi adesso cosa abbiamo scritto o cosa hanno scritto negli anni 70 o prima o ancora prima o quelle del Medioevo, insomma, no? Se, alle giovani che fanno le tesi, eccetera, si ritrovano il sapere canonico e canonizzato che lo trovi in giro in tutte le parti. Infatti in questa libreria si trovano dei testi che in altre librerie non sì. ci stanno, no? Sì. Mi aggancio su questa cosa, che questo è un lavoro enorme per noi, no? Ci porta un sacco di tempo, perché il mercato, non mi sto a dilungare troppo, ma insomma il mercato chiaramente dopo 6 mesi il libro sparisce, insomma, certo, strangola. No? E quelli di donne ancora di più, perché c'è questa finanziarizzazione del mercato e delle editorie. e per noi è un proprio impegno quotidiano, una fatica costante. Cioè io vado in giro per i fatti miei, butto un occhio, passo un occhio davanti a, che ne so, una bancarella oppure un qualche cosa, vedo una cosa che magari è introvabile e piglio me, e sono in giro per i fatti miei, insomma, no? Certo. Parte. Perché questo... il fatto di impegnarsi a raccogliere, no, tutto quello che per noi appunto serve per quelle che vengono adesso, insomma, certo. No? E questo qui per noi è un impegno economico straordinario, cioè eccezionale, tipo che noi teniamo scrittrici, che abbiamo sempre tenuto da quando abbiamo aperto la libreria e che magari abbiamo venduto in 25 anni una volta. Eppure quel libro noi l'abbiamo comprato. Fai un esempio, chi può essere? Tipo Lalla Romano, che ecco. È un esempio di una scrittrice che è stata scoperta ultimamente, giustamente, da quelle che insegnano italianistica, eccetera, negli ultimi 4-5 anni ha avuto, no, un buon riconoscimento, eccetera. Beh, noi avevamo i libri suoi tutti, a partire da quando aprimo la libreria, ci abbiamo la scheda, noi ogni libro lo schediamo, e c'è la data di nascita, luglio 1977, quindi pensa cioè di acquisizione nella libreria, certo. E poi te li faccio anche fare vedere, ma quindi... e così tanti, per cui questo è il peso economico della cosa, e d'altra parte se non fai così, no, diventi una libreria comune, dove non c'è più... Non c'è legata a una catena o a interessi economici, di mercato, e non è questo il vostro interesse, no? E una domanda appunto che si aggancia per forza a questo discorso che stai facendo, allora che cosa significa per te, cosa significa per voi fare imprenditoria femminile? Oggi come ieri, tu l'hai accennato nella storia, ma oggi quali sono le problematiche rispetto a leggi di mercato che sono imperative, guarda, no? C'è una cosa, c'è una cosa su questo, io discorsi che spesso ci sono sull'imprenditoria femminile eccetera, no? C'è, io credo, alla base della possibilità di fare una qualsiasi impresa, di costruire una qualsiasi impresa, una progettazione di sé che è molto difficile da acquisire. Cioè tu devi pensare che dipendi dal pane che ti produci, cioè certo. Che non ci sono altri che lo cosa. Per cui questo è dal lato stimolante, no? Cioè, non è solo un discorso sul bieco industriale che mette certo. Cose, no? Cioè, tu devi pensare, per una donna è abbastanza più difficile, insomma. Perché abbiamo un'educazione, esatto, una direzione. Una storia, tutte queste cose. E il pensare che tu sei l'artefice, no? Per cui devi mettere in ballo tutte le tue migliori possibilità. Insomma, non c'è, no, non ci sono cose. E nonostante questo molto spesso può andare anche male. Ma io credo che proprio la prima molla è questo discorso del produrre denaro e reddito per sé, che è il momento più difficile proprio di passare, cioè proprio il progettare, sono io che devo pensare domani se non c'ho da mangiare, no? Cioè che devo mettere, ecco, questa cosa di che non c'è nessuno che me ne dà. E questo è un discorso che è un po' difficile, non è così facile, no? Molto spesso si mettono le cose sull'onda dell'entusiasmo, facciamo, e c'è sempre... Spesso è il facciamo e c'è sempre un inconfessato e forse non consapevole, come dire, fidarsi o buttare su qualcun altro. Delegare, no? Sul delegare, sì, esatto, sul delegare più che altro. No? Uh-huh. Ecco, e questa cosa, questo atteggiamento infatti proprio di partire da sé, di dire no, è fondamentale, insomma, no? È un passo fondamentale, non è detto che uno lo debba fare, insomma, no? Cioè, però quando si incominciano progetti di donne, certo. Se ci fosse una maggiore attenzione a questo, io penso che molti molto meno fallirebbero, insomma, no? Certo. Forse ci sarebbe qualche chance in più, ecco, qualche chance in una più. Maggiore capacità di affidarsi tra donne da una parte, da un lato, però esatto. Di autocentrarsi, però di star centrati su sé. Sì. Da una parte mi veniva da farti questa domanda anche perché oggi sono cambiate molto le cose rispetto a un certo modo di intendere l'imprenditoria femminile, perché oggi va un po' di moda il rampantismo, sì, esatto. No? E quindi in quel senso, invece appunto questo discorso che tu hai fatto in questo momento, beh, sì. ritorna sì. Nuovamente poi all'origine. Sì, poi c'è una cosa. Che tutti noi abbiamo questa idea della retribuzione del lavoro, della retribuzione in termini economici puri. E, dunque, questo dire, io lavoro 8 ore, mi deve tornare la paga di 8 ore. Quando tu ti metti che metti su una cosa impropria, e vengono ad avere valore di paga, non danaro, di paga, degli elementi, altri elementi, che sono la soddisfazione, il lavorare con più gioia. Per cui, se tu, quando ti metti a progettare, cancelli questa parte che io ritengo essenziale nella propria valutazione economica, direi proprio economica questa cosa, no? Cioè, allora, le 8 ore, se non mi sono pagate come da standard sindacale, no? Cioè, che non mi sono retribuite così, perché quella è appunto, è l'alienazione, insomma, no? C'è questo fatto che, te lo do in termini economici, perché c'è poco, dico, ecco, io non sto facendo l'ideologia del lavoro in sé, lavoro tu stai parlando della tua esperienza. Esatto, sto parlando della mia esperienza, cioè, io dove vedo che ci sono delle cose che sicuramente nessun danaro mi avrebbe potuto pagare. Certo. Naturalmente. Senti, per tornare al discorso della politica culturale, no? Ciclicamente in questa libreria vengono fatte degli incontri. Sì. Ce ne puoi accennare o anticipare qualcuno già in programma? Le date precise per febbraio ancora non le sappiamo, ma abbiamo in mente un incontro con un'autrice di molto probabilmente con una donna che ha scritto una biografia di una pittrice sconosciuta, io non l'avevo mai sentita, diciamo, ma non è che io faccio, no, che sono il punto di riferimento, napoletana, e dice che ha fatto dei quadri bellissimi, c'è stata una mostra non molto tempo fa a Napoli, in una sede anche abbastanza prestigiosa, e lei ne aveva scritto Morte suicida, con marito pittore noto. Naturalmente, naturalmente. E insomma, questa sarà una delle cose, ecco, un po' di, no, queste cose. Poi ci abbiamo, che il venerdì facciamo la sala da te. Sì, questo lo sapevamo e siamo contente che, sì, che tu lo possa dire invitando. Ecco, sì. Perché quindi questa iniziativa della sala da te come si è? Allora, era un po' perché appunto, un po' per stare molto in compagnia, no? E per cosa? E poi anche così, perché ogni tanto qualcuna magari si dà un appuntamento, oppure tutti dicono, ah, mi sembra una cosa, mi prendiamoci una cosina, stiamo qui a fare 4 chiacchiere. Allora, siccome eravamo riuscite ad allargare lo spazio della biblioteca, che abbiamo fatto le nuove scaffalature, c'è questo ampio spazio di cose, tra l'altro i tavolini eccetera sono state aiutate da una nostra amica, ci ha dato i soldi per comprare, perché la libreria chiaramente è difficile che possa tirare fuori anche, certo, no, i soldi per l'arredo, esatto, no, per cose, cioè, e dunque facciamo il venerdì dalle 5 alle 8:30. E vogliamo fare di tutto là dentro, insomma, no, adesso la settimana scorsa era venuta Sara Zanghi, che ci aveva letto dei pezzi di poesia, cioè aveva letto delle poesie, dei pezzi di prosa sua, e poi dopo in realtà c'è questo conflitto, che alcuni vorrebbero solo far chiacchiere e giocare, e altre, allora dobbiamo trovare una mediazione fra una volta al mese. Esatto, no? Probabilmente potrà. Allora io ho deciso che inviterò una ballerina un giorno o l'altro. Ma probabilmente, no, posso fare più. Probabilmente sarà sufficiente stabilire una volta al mese magari letture di poesie eccetera, e altre volte altre cose. Ma poi si può mettere d'accordo. Santa Re tempo fa, prima di Natale, in dicembre mi pare che fosse, questa cantante maigliana politica che fa i canti sulle cose, ha cantato una canzone qui dentro, cioè, si rovesciavano i libri dell'emozione. Sì, insomma, no, ecco, cose. Ce ne sono cose di questo tipo, no? Cioè, siamo un po' in difficoltà che non riusciamo a stare dietro a tutto, capito? Adesso infatti sto lavorando per questo, per cercare di pianificare, affidare, esatto, no? Di affidare un po' di cose anche ad altre, insomma, che sono interessate, perché c'è un... e appena ho fatto questa proposta di dire, no, c'è questa cosa di fare volontariato e di organizzare delle cose, eccetera, ha raccolto, sai, è come versare acqua sul deserto, proprio c'è stata una fioritura di risposta, e, perché c'è un grande interesse, un bisogno. Sono dagli incontri politici a quelli più letterari, chiamiamoli, insomma. Io direi che ci possiamo salutare, Maria Luisa. Noi siamo veramente felici. Ti ringraziamo tantissimo perché... Ah, poi lei... Aspetta, scusa, volevo solo aggiungere una cosa. Che noi in libreria, mensilmente, diciamo i nostri preferiti del mese. Sì, ah, è vero. Questa è una bella iniziativa perché io quando vengo e ho voglia di comprarmi un libro, faccio un giretto e guardo quali sono i preferiti. Sì, poi dopo, che... poi dopo uno magari. Scendo. No, assolutamente, non sono qui. Però è quella... cose, io, noi abbiamo notato che nei nostri preferiti del mese poi dopo vengono venduti di più, allora, e non è solo perché magari sono belli intrinsecamente, è il fatto che questa cosa, no, cioè proprio è una funzione in più che una libreria ha, una libreria di questo tipo, no? Certo. Che fa del sapere la sua base del fondamento, il suo fondamento di esistenza, dunque c'è ritorno, hai capito? Cioè è proprio è assolutamente questo vado a dire, vabbè, tu mi dici che è bello, ti prendo in parola e lo provo. Esatto. Io ti ringrazio e io e Caterina ti salutiamo, sì. Ma soprattutto, cioè, ho voglia di dire che comunque questa funzione, al di là dell'esserci adesso il cartoncino, sì. L'hai sempre è vero, a voce, è vero, a voce, perché a sempre voce. Io ti chiedevo, sì. Maria Luisa, questo libro com'è, che ci consigli? No, ma poi allora ti racconto quelle cose, quando raccontavo, allora quando racconto dico no, questo non mi è piaciuto per questo, questo, questo motivo, ne elenco 10 o 20 e la persona che c'ho davanti fa benissimo, me lo prendo. Bene, grazie Maria Luisa. È sempre dal CD Women of Spirit, Dame tu fuerza della brasiliana Fortuna. Sono perennemente in fuga per evitare di essere scoperta e sono in fuga per scoprire cose per me stessa. Così inizierà il nuovo libro di Janet Winterson, Powerbook, appena consegnato all'editore ed in uscita in America e in Inghilterra a settembre e chissà quando in Italia. A detta dell'autrice, Powerbook costituisce un tentativo di traslocare il romanzo nel XXI secolo. Un miscuglio di posta elettronica, racconti, blocchi che possono essere letti nell'ordine preferito e pezzi ispirati a Dante e Ariosto. Detta così, sembra essere un altro libro del genere che la Winterson ci ha offerto negli ultimi anni. Ricco di visioni oniriche, è sempre più lontano dalle regole sintattiche e logiche che costituiscono la base di un racconto. Nata nel 1959 a Manchester, Janet è stata adottata da una famiglia pentecostale ed ha vissuto un'infanzia difficile all'insegna del rigore evangelico, descritto magnificamente nel suo primo romanzo Non ci sono solo le arance. Questa e le sue opere successive, Passione, Il sesso delle ciliegie, Scritto sul corpo, Arte e menzogne, Simmetrie amorose, hanno vinto numerosi premi letterari in Inghilterra e all'estero, anche se il suo pubblico è costituito per lo più da lesbiche e gay di tutto il mondo. Janet ha raggiunto la notorietà con Scritto sul corpo, una storia d'amore intensa e quasi distruttiva, un po' troppo ispirata al corpo lesbico di Monique Wittig, giocata sull'ambiguità del sesso di nascita dell'amante di una donna stupenda, ambiguità che non viene chiarita nemmeno alla fine del libro. Nei confronti di questa giovane scrittrice, che ha sempre dichiarato apertamente il proprio lesbismo, c'è stata molta curiosità e molta invidia. E Janet stessa dice: «Ho avuto troppo successo da giovane e in questo paese, quando qualcuno ha successo, viene regolarmente fatto a pezzi». Dopo il film per la TV, basato su Non ci sono solo le arance, che vinse nel 1990 il premio della British Academy of Film and Television Art, la regista afroamericana Casey Lemmons sta per iniziare la lavorazione di Passione, che avrà come interprete Gwyneth Paltrow. Nel frattempo Janet ha lasciato la sua grande casa di Londra, trasferendosi in campagna nei pressi di Oxford, con la sua compagna Peggy Reynolds, insegnante di letteratura inglese al London College. In Italia è appena stato pubblicato Il mondo e altri luoghi, una raccolta di 17 racconti scritti dal 1985 al 1997, tutti su commissione, ovvero su richiesta della casa editrice o di pubblicazioni specifiche, perché, per Janet, la dimensione del racconto non è quella più consona, preferendo lo spazio più ampio di un libro. Il racconto che convince di più la critica è proprio quello più dichiaratamente lesbico, La poetica del sesso, commissionato proprio dalla sua compagna Peggy Reynolds, che ha curato il Book of Lesbian Short Stories. Nel racconto Janet, forse proprio in seguito alle esperienze che ha vissuto in prima persona, immagina un alternarsi di domande brutali come: perché vai a letto con le ragazze? Chi di voi due è l'uomo? Cosa fanno le lesbiche a letto? E di risposte ricche di surreale lirismo, che si beffano della volgare curiosità dell'intervistatore. A chi le domanda, come la giornalista di Repubblica Irene Bignardi, se pensa che la scelta migliore sia quella lesbica, risponde che non è vero, ma crede che spesso gli esseri umani operino delle scelte senza pensarci troppo ed in base alla sicurezza che offrono. Ed aggiunge: tutto quello che accettiamo senza discutere, che deleghiamo alle istituzioni, ci toglie potere, ci rende più deboli, ci fa perdere il senso della nostra identità. Il carattere speciale della scelta omosessuale è che, proprio per la mancanza di regole e modelli, era scelta. Come non essere d'accordo con Janet Winterson? E per il nostro appuntamento con la musica lesbica indipendente, le Indigo Girl con Reunion. Vi ricordiamo che la musica che sentite di sottofondo sul parlato è delle Kick la Luna e si intitola Simple Abbas. portions of lives that are desperate. He was sharing misfortune. Faith is one thing. Appuntamenti. Sabato 29 gennaio dalle ore 15 e domenica 30 mattina a Milano presso la sede del GIG, Centro di Iniziativa Gay, via Torricelli 19, telefono 02 58 10 02 99, si terrà un incontro di verifica sulla possibilità ed opportunità di riprendere, rafforzare e organizzare anche per il 2000 in Italia l'Università Gay e Lesbica d'Estate, sulla base anche delle precedenti esperienze. La UGLE, Università Gay e Lesbica d'Estate, intende essere uno spazio di informazione, riflessione ed elaborazione sulle tematiche della sessualità, con particolare riferimento all'omosessualità maschile e femminile, ma rivolgendosi a tutti i soggetti che a tale confronto siano interessati. È uscito in libreria il quarto numero di Marea, la rivista di politica femminista presente anche online sul sito www.marea.it. Questo numero è dedicato ai bilanci, bilanci nella storia delle donne, nella politica della pace, nel personale che è anche politico, nelle politiche femministe che sono anche prospettive per le prossime generazioni di donne e forse di uomini. Come dice la curatrice Monica Lanfranco, a voler guardare con occhi disincantati e del tutto obiettivi basterebbero le parole di una grande studiosa femminista della politica, Robin Morgan, per formulare un sintetico ma esauriente bilancio di fine secolo, nelle prime battute del suo bellissimo Il demone amante. Se dovessi condensare in un'unica qualità il genio del patriarcato, direi la capacità di dividere, di istituzionalizzare la disconnessione. Ragione verso emozioni, pensiero verso azione, scienza verso arte. La terra stessa è frammentata dai confini nazionali. Gli esseri umani sono suddivisi in categorie, per sesso, età, razza, etnia, preferenze sessuali, altezza, peso, classe, religione, capacità fisica, ad nauseam. Il personale isolato dal politico, il sesso separato dall'amore, la materia dissociata dallo spirito, il passato scisso dal presente, a sua volta distinto dal futuro, la legge scorporata dalla giustizia, l'immaginazione disgiunta dalla realtà. Sometimes I get a good feeling, yeah. Yeah. I get a feeling that I never, never, never, never had before, no, no. Yeah. Avete ascoltato? È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, a cura del coordinamento Lesbiche Romane sugli 87 e 900 di Radio Onda Rossa. I really do believe.